Spiro, ricordiamo l'appuntamento dal 6 al 18 febbraio all'Off-Off Theater a Roma, via Giulia, con il cortile per la regia di Valerio Binasco, in scena Francesco Sframelli, Spiro Scimone e Gianluca Cesale. Spiro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio forte anche a voi, a tutti i radioascoltatori e naturalmente vi aspettiamo a teatro. Certo, ci vediamo a teatro. Ciao, a presto. Grazie, ciao, ciao, ciao.